di Dio in casa. Travagliendi, travagliendi, travagliendi. Quel focchiore mi ha messo la guarda, non è? Non toccare quel cazzo, Luca, non toccare quel cazzo. Ma bagaccia di chi siamo otto. Ah, se me l'ha fatto migliorare su coro. Mi sono con mezzo e mezzo ancora di uno stipendio. Voglio sentire una cosa. Sì, io va bene. Gianni! quando sono partito era accesa la macchina, sono partito, ho camminato e tutto, non lo facevo. Vabbè, ma quello non vuol dire, attenzione, può essere anche qualche condensatore, che ne so, anche dell'alternatore, che ti può dare fastidio adesso, quello non vuol dire. Però adesso quello lì non sento nulla, l'ho spento, non è che non sento niente. E allora probabile sia il condensatore dell'alternatore, non è molta la spesa, mi pare che costi 2 euro. È strano, capo. Ma male sto uscendo? No, stai uscendo benissimo. In uscita stai andando bene. Vabbè, dai. Vi lascio un attimino che vado un attimino a fare la commissione. K, avanti, va che. K, Giuseppe, niente di strano che come stai dicendo tu, se la macchina aspetta non glielo fai, la macchina accesa glielo fa, c'è qualcosa nella macchina, K, 2 più 2 fa 4. Esatto. Quindi una volta che tu spegni la macchina, non ci sono più organi elettrici in moto, e soprattutto la cosa che disturba di più della macchina è l'alternatore, perché? Mannaggia, ragazzi, che fastidio però, Guarda, non parlare di fastidi, perché la verità è che io avevo quell'ultimo che mi perseguitava per 20 giorni. Porca miseria. Comunque adesso è tutto roccia, sì. Io me li sto toccando tutto bene, se l'avessi. È meglio così. Beh, sei passato su 14, tutto tranquillo. No, su 14 c'è un... aspetta, che non mi ascolti un secondo. Dammi 20 secondi, pace. Sì, gappa. Attento, pacchetto. Eia. Mi sono sbagliato, non è su, vai su 15, è come un trappano. È come un trappano, però è sempre fisso. Aspetta, dammi 2 secondi. Vai. Quindi è qualcosa di forte nell'aria, Positivo. Avanti sul 5 il fischietto. Avanti sul binario 5 il fischia, K, da questa parte Giuseppe, in compagnia dell'amico Pacchetto. Se vuoi entrare la porta è apertissima. E poi doppio due per la parte. parlando. Eia, io stavo ascoltando il silenzio e tutto, mi sa che se ne prenda qualchetto le colpe, invece niente. Io mi sono rubato su di te. Cala. No, va bene così qualche cavolo, per così poco. Magari poi, quando entra veramente domenico, dice, oi, alza verde, dai, che cambiamo canale. Che non si capiva il padre col figlio. Minimo. No, niente, adesso vuole la vista che lo sentivo proprio giù perché stava sempre chiamandolo, non mi senti, non più giù, non lo rispondeva, ma non lo sentiva. Poi ho fatto già ne sia qualche te lo sento, ma a vera no. Adesso è bene, poi si è scocciato e ha chiuso. Ma non è la sera. Sì. Il vela. Non te lo so dire, non vela, la verità, Canta di positivo. Speriamo che quel nome qualche giri a largo dalle note antenne, prova di dare. Mamma mia, finché arrivare lì non mi interessa niente, mamma mia. Bussa via la cosa. Assa via lì. Cosa mala è finito? Porca miseria, però. Se mai io dico una cosa, adesso a parte di scherzo, no? Noi stiamo pagando una concessione, no? Giustamente. Abbiamo il santo Cristo di modulare, no? Come Dio comanda. Ma cosa fanno durante il giorno questi signori benedetti? Molte domanda. Cosa fanno? Se la giocherà un flaccante, fai che? Perché se ce l'ha fatto controllo tutti questi disturbi, sicuramente non c'erano stati. E bisogna fare una bella denuncia e cominciare a far pulire un pochino l'aria. Infatti. Fare una riunione a tutti i CD e dire, oh signori Billy, o vi siete due solo o mettete altre gente competente. Molto di domanda. Cappa di positivo. E qui bisogna parlarne alla grande, non so più se c'è da buttare giù quattro firme in un pugno e poi si portano lì al coso del controllo delle emissioni radioelettriche, non c'è assolutamente problema. Infatti, non ci sarà un direttore, uno giovane, uno superiore, un qualcosa, boh, non so io. Lì in settimana già c'è sempre gente, io sono andato sabato, no, per fare la denuncia, e in settimana lì c'è sempre gente, ma posso richiedere anche 3 ore di permesso, se riusciamo a combinare tutto mi posso avvicinare anch'io, io problemi non me ne metto, mi fai che. Ah, infatti, è quello, hai capito, riuscire a combinare tutte le firme, poi magari una persona, si sceglie una persona a caso e si porta le firme su da loro, capito? Perché deve finire questa cosa, mannaggia, non esiste proprio. Cioè, io dico questo, se uno deve modulare, che modulo è santa pace, non è che deve rimanere con l'incubo, non posso passare lì perché c'è quel disturbo, non posso accendere l'apparato a casa perché mi stanno tartassando di colpo. Questa gente deve stare in giro a controllare, la nappa gliela paghiamo noi medico con la macchina. Infatti, è quello che ti sto dicendo. Già sono pagati. Poi penso, io mi ricordo tantissimi anni fa, tutti i canali erano pieni, dall'1 al 40 erano pieni, ma questi disturbi ma non esistevano neanche minimamente veramente. Ci credo qualche. Però adesso niente di strano che come hanno notato che il coso dei CP è calato notevolmente, no? come numero. Niente di strano che ci sia gente che si sia appropriata anche di qualche canale libero per mandare segnali che servono solo per i loro porci comodi, tutto quello. Perlomeno io la penso così, perché cioè non è possibile che io giro e vado al 14 case che mi stanno traparando la casa, cioè non ha ragione di esistere. Sì, infatti, io confermo quello che stai dicendo, Giulio, confermo a gente, perché non può esistere una cosa che loro si siano appropriati per dire, tra virgolette, io sto solo ipotizzando, a appropriate di un canale che non è neanche loro, perché appartiene ai CB, nel senso che noi paghiamo la tassa e paghiamo la tassa per modulare. Ma non è che loro si devono fare padrone di un canale e rompere le scatole, non va bene. Oggi era al centro, ma al 100%. Ecco perché io dico, bisogna mettere sul piatto questa proposta, poi vediamo chi ci sta in bene e chi non ci sta, pazienza. Però bisogna venirmi a capo, perché qui più si stiamo andando avanti con te, più si stanno sporcando queste frequenze. Infatti. E poi una cosa che è utile anche per noi, non è che lo stiamo facendo perché vogliamo fare dispetto a nessuno, lo stiamo facendo per le nostre esigenze, cioè non si può. Cata, se io mi voglio spostare sul 15, cazzo, mi sentire questa campana di cose, ma non sta scritto. Invece si fa una riunione, si mette la firma, tutti quanti si porta lì, addio signori Billy, qua ci vogliono controlli, perché il 15 c'è casino, quando non è il 15 è il 14, quando non è il 14 è l'1, quando non è l'1 sarà il 40, ma insomma, signori Billy, qua voi siete pagati anche per fare i controlli, o no? Perché poi se loro i controlli non li fanno, li paghiamo direttamente, poi saranno fatti loro, perché loro sono proprio pagati per fare i controlli. Infatti, se non si fa una lettera al direttore di Cagliari in cui si dice che i signori di Sassari non vogliono fare il suo lavoro, punto di domanda. Cappa di positivo, dopo ripetute segnalazioni non c'è stato nessun riscontro da parte delle scomposte territorio di Sassari, perché io penso che loro abbiano Sassari e provincia, e dopodiché se la vedranno loro col Ministero delle Telecomunicazioni, perché arrivati a quel punto io dico, finché sono abusivo prendo e tu zitto, come quello no, a cavallo un attimo si guarda in bocca, finché una cosa micio balbao la faccio, quando mi va bene lo trovo libero, modulo e mi sto zitto, quando è occupato prendo e chiudo e aspetto il mio turno. Però qui stiamo pagando una concessione, stiamo pagando una tassa, se permetti, casi io prendete le palle, non le voglio. Infatti, Giuseppe, però confermo al centro, è così. E non ho capito io che io devo modulare in un canale, perché io ho il diritto dall'1 fino a 40, se permetti. E dall'1 a 40, se permetti, i canali non devono essere tutti incasinati come sono la maggior parte incasinati. Questo è perché loro se ne stanno fregando, l'escopo se ne sta fregando di Sassari. E allora bisogna fare una lettera al direttore delle telecomunicazioni e specificare il tutto. Poi sarà lui, ha detto, a tirare le orecchie, signori Billy. Ma è capace, io adesso guarda, facciamo una cosa, aspettiamo che entri qualcuno, se non sul 5, sul 10, vediamo un pochino di parlarne, se poi non ne vogliamo parlare qui domani sera, se voi siete d'accordo, ci possiamo trovare, tanto ci vogliono 10 minuti, si parla in verticale e dopodiché via, tanto basta la firma e le generalità del documento di identità. E così se avanti il becco cazzo di cazzate se rende poco di casino cazzo bobo. E perché non sei d'accordo? Di cosa? Questi di cosa? No, sono entrato a basso, sono entrato cazzo di sempre clienti siete, ma se è così è così, no è così. L'altra, buonasera. Ah, ciao, l'altra. No, a te il fattore di questi disturbi ai canali, che uno va a modulare, sente questi disturbi che no, proprio fastidiosi al massimo, capito? Oh no, ci sono questi controlli, non ci sono, capito? Io pago la concessione per poter modulare sia dall'1 a 40 canali. E non posso io sentire, se mi sposto al 15, devo sentire questi rumoraci, e non posso modulare. Cioè, non esiste, capito, vai? Sì, che fanno, dai. Ma purtroppo, gatto, non lo sai quanti è. È tutto un casino, gatto, il capanicchio, gatto. Lo so, il casino, ma dovremmo metterci d'accordo tutti, più o meno, e fare un esposto al anche a telecomunicazioni e dire, trasmettere il disturbo che abbiamo, tutto qua, non è che stiamo andando a metterla in culo a uno o in culo all'altro, stiamo andando per i nostri diritti, noi paghiamo dei diritti e vogliamo modulare santa pace, tutto qua. Ma purtroppo quando entra, che esci, ognuno va a fare così, e lo puoi fare, apria, no, saranno. Io non parlo di chi sta modulando, io parlo dei rumori che ci sono, non di chi modulano, dei rumori che ci sono sottofondo, capito? Che pur non sono sottofondo, sono rumori abbastanza strani. Ehi, avanti, dai. Dove sta facendo Natale questo? Io non sono Natalino, sono Qualchetto, buonasera, in compagnia di Tornado. Adesso vi rilascio Tornado così per i saluti. Uso Banchetto. Allora, Manche. Ho detto ti rilancio a Tornado per i saluti, allora ti Tornado per Anatra. Papà, anche dai, va bene così. Ciao Anatra da questa parte, Giuseppe Tornado, dai. Era un discorso comunque totalmente diverso da quello che stai facendo tu. Per capirlo bisognava che ci fossi dall'inizio del discorso. Comunque da questa parte, Giuseppe, dai, riprendi pure tu, qualche. Andavano in moto, dai. Oh, Giuseppe. Dai, vi saluto. Adesso scendo un attimino e ci sentiamo più dopo, dai. Kappa di positivo. Avanti l'amico Pagretto. Kappa, salutoli Anatra. Salutoli. E niente, è tutto lì, Giuseppe, tutto lì. Bisogna farlo e basta. Kappa, aspetta un attimo, vedo un pochino che cosa c'è in giro, Pagretto. Dammi 2 secondi. Kappa. Giuseppe, è successo Antonio? Gianni, tu sì. Gianni? Appunto, cosa è successo? No, stiamo parlando con Giuseppe, per questi rumori fastidiosi bisogna fare una riunione, riunirci, mettere delle firme e signori belli di Sassari cercare di farli svegliare il sonno, perché loro sono pagati, noi paghiamo una concessione per poter trasmettere dall'1 al 40, non sentire il rumoraccio come si sentono nel 15, alle volte nell'1, alle volte nel 3, alle volte nel 40, cioè loro sono pagati anche per fare questi controlli già, capitina, ma stiamo scherzando. Perché Giuseppe ha più disturbi? Ma certo, io li ho sentiti su 15 per esempio, e Giuseppe lo stesso. Quel rumore va! Esatto, tipo un trappano rimane, fisso. Sì, fisso. È lo stesso che sto dicendo io, stavate dicendo che era conversatore, a me invece non è quello. Perché l'ha sentito anche Coso, Benito stasera. Kappa. Adesso bisogna vedere se è cosa dell'aria, se sono dei pari dell'alta tensione, che ne faccio io, Comunque sono molto fastidiosi perché io i segnali bassi non li ascolto, prima ascoltavo tutti, trovavo un po' altro, adesso i segnali bassi non li ascolto. E infatti c'era per esempio Vela che si stava sgolando, chiamandoti, non lo so se tu lo sentivi. No, sentivo solo bisbigliare, ma non si capiva cosa diceva perché era più forte il rumore di lui. Infatti, quello che ho detto io. Guarda che non è neanche una cattiva idea quella di Giuseppe Tornado, mettere delle firme e farli citare un solo che ci ha tributato la galleria tutta la lì. Ma a quanto pare anche la mia mattina hanno fatto una denuncia per questi rumori. Ma Giuseppe, quale siete? Sempre al solito? Penso che sì, io ho girato con lui, no? E si sentiva una specie di trappolo, però era un rumore fisso, beh. E io ho confermato su 15, e c'è la verità. Attenzione, forse c'è qualcuno che vuole entrare, ho sentito dei bip insistenti. Avanti, chi vuole entrare sul 5? Oh Giuseppe, scusa, ma ero su 15, stavo controllando, io non ho recepito nessun rumore adesso. Che cosa? cosa, solo che a motore spento non lo sento, non sento quando accendo. Ma già in macchina lì il discorso è diverso, Gianni, perché noi qui ad esempio non abbiamo apparecchiature elettriche che girano, però il rumore è presente, mi è capito. Un attimino solo che ci butto questa macchina alla Coca-Cola e poi mi fumo una cigarra. Calma, dai, tanto io tra un pochino vado a fare 10 minuti di carica e poi una bella chiacchierata ve la voglio fare stasera, che sono in arretrato di un paio di giorni di baracchino. Ma di rogero, lei anche lo sai, che sono carichi, si riprende la grande. Ma che? Ma tu lo senti sotto questo? Bli. Non fermo. Sembra qualcuno che sta dando colpi di portante, no? Però se vuole entrare, avanti. No, niente, ascolta qualche. Cosa ne dici? Io propongo 10 minuti di carica, così poi ci possiamo rilassare per bene. Fermo, tutta la grande. Anch'io 10 minuti di pausa e poi riprendo, Campa, dai, comunque ti stanno mettendo la portante, sai che ma stai passando alla grande 2. La portante a me? E poi cosa c'è a far arrivare, me? Campa, sento solo nel sottofondo i bippi della portante, però la stai passando alla grande, dai. E facciamo la cosa saggia che abbiamo detto, fai che 10 minuti di carica e poi ci ritroviamo più. Cappa Roger, dai, buon carica e buon tutto, dai, a dopo. Cappa perché? È una carica e appetito. Altrettanto, a dopo. Pure me l'ha fermato quel rumore. Io piove lo stesso e me lo fa lo stesso sto rumore strano, ma non me l'ha mai fatto, il fatto è quello. Ma adesso ce l'hai? No, adesso no, diciamo vedere. Fattire già davanti. Ma è una statua, si sta vicino, una statua. Ti innanna, cagino, vai, gira, questo è proprio il fumendi, ma non è tu fumo. Ma non è tu rendo, lo potrei ballare a tutti. Sono tu fumo già. Ui, non hai un'idea. Ma così fumo, tu batte ca, tu batte che fumo a zero. Ma non ti da non fa l'ora. Ma com'è, buona roba? Io questa. No, ma dove tra uomo già? Sono due uomini. Uomini. Uno casano, quell'altro, no, non so come non ti chiamano, ma non mi interessa più. L'altro non ti nome. Ma mi interessa la quella. No, io sto dicendo la l'operaia. Ma va, usa la mia, eh. Rosa rossa, non so, non è proprio giurata, la rosa rossa. Carlos. Non ho più il telefono attaccato, mica sei sul giornale, già. E ti ha messo l'indirizzo tutto quanto. Perché voi non sono macchino di Bonni. Quindi non devo evitare storie e cose. Ho preferito venderlo, intanto ho capito che era quello, perché con gli altri apparati non gli davo fastidio. Perché apparato? È un casino, quando è così è un casino. Bracco, no, sono entrato per salutarlo. Non è per caso che c'è l'amico Roberto Quadrato? Buonasera Marco, abbiamo ascoltato. No, io non l'ho sentito ancora. Non si è affacciato. E io capo, io diciamo solitamente li trovavo sul canale 23, adesso non mi ricordo. Ma vedo diciamo che la frequenza sta sempre diminuendo, prima diciamo ne trovavi quanto volevi in tutti i canali. Adesso invece a poco, guarda, certo non c'è più nessuno addirittura. Non è che mi annoia della verità, perché diciamo, quando passi nella vendo parecchie cose, tutto qua. Ok, ti rilascio il micro. Stai portando dietro un rumore strano, non so che rumore sia, forse c'è il televisore vicino o cosa, e cioè sì, la radio è comprensibile, però un po', non so come definirla, un po' rumore, no? È accompagnata da una specie di ronzio fortissimo. Ok, ti rilascio il micro. Come mai tu senti questo, come sto parlando? Se faccio così non lo senti più, vero? Non ho capito, prova. Adesso non ci dovrebbe essere di più. Un po', parlo un po' però, se parli un attimo non ci capisco nulla. Guarda, così non ci dovrebbe essere più, è ritornato tutto normale, senza niente, mentre prima invece c'era un effetto elicottero, lo chiamano, cioè c'è la scheda corta inserita, mentre invece così no. Vabbè, perché prima quello c'avevi il lineare per caso? No, è la scheda colta, cioè se faccio così è come un eco sotto forma di elicottero, capito? Scheda colta. Ho capito, ma però diminuito il segnale, come mai? Cioè mi sembra che poco fa il segnale era più forte. Il segnale è più forte, no, il segnale non lo diminuisce, non elimina soltanto questo eco e basta, quel segnale sono 4 watt in antenna, è sempre lo stesso perché vedo lo strumento qua mi sta segnando. Prego. Sì, un attimo, ho capito, ha bussato qualcuno, ma ti prego. Sì, buonasera, ciao Pierpaolo e ciao Giovanni, ben sentiti, non so se ci sia qualche altro, io sono stato in altri canali con la Grecia, stavo parlando con questi di Salonico, a bomba arrivavano in FM. La faccia, Roberto, allora non hai bisogno manco di, non hai manco bisogno di passare in altre frequenze, diciamo, se riesci a parlare con la Grecia, vabbè, tutto dipende dall'antenna, naturalmente. Comunque io sono riuscito a sistemare alcune cose, riesco, diciamo, discretamente sia in 80, e sia in 80 e in 40 metri, nelle altre frequenze non ho provato, comunque per me la frequenza ideale è 80 metri perché ti puoi fare la chiamata la sera e tutto qua. Bene Robbe, li prendi. Sì, buonasera, se facciamo ripartire la Pierpaolo. Ciao Pierpaolo, non so se ci sia qualche durata, va? Cappa, buonasera Roberto, non c'era Gianni che ha fatto 2 minuti in bianco. Sì, questo signore che sta parlando è un vecchissimo, non va bene, non lo facciamo troppo vecchio, è un vecchio data, ma non l'ha chiamato di vecchia data, dai. Sì, l'ho sentito altre volte, Roberto. Si sta di nuovo riappassionando alla radio, è vero Giovanni, vediamo un po', da quanti anni è che non è stato in frequenza? Diciamo quasi 30 anni. Sai com'è, diciamo che a volte ci sono quelle cose che ti avviliscono. Un esempio a Torralba ci ho messo le antenne ma in edizione purtroppo faccio dei guai. E prima che ti rompano le scatole praticamente poi al limite posso modulare dopo mezzanotte, ma non so se sia molto conveniente, no? Qua sembra che dei guai non è facile, speriamo, ma qui naturalmente c'ho anche dei filtri particolari che per non disturbare la televisione, mentre là non ce l'ho purtroppo. quando ho fatto roba mi interessava modulare quanto sasso, forse anche di più, perché c'è l'amico, diciamo, Azzoli, che ci colleghiamo spesso in 80 metri, eccetera, eccetera. Ok, bene, bene, Roberto, io lancio il micro e fai girare. Ciao, Pierpa, come ti arriva l'amico Bracco dalle tue parti? Santiago 5, radio 2-3. Addirittura, ma a basso di radio, perché vabbè, noi siamo molto vicini, qua arriva a fondo scala, giù mai, è fortissima. Ma 2-3 perché mezzo a cuore a me o che cosa? No, 2-3 perché forse parla molto calmo e con un tono di voce molto basso. Sì, no, vabbè, c'è la sua, la voce sua è così, no, qua è una telefonata, è perfetta, vabbè, siamo molto vicine. Ma no, pensavo arrivasse un po' meglio. Invece a te, Bracco, come ti arriva Pierpaolo, giù dalla parte di, diciamo, la Teloce, dove la Teloce, eh? Voglio aver detto poco fa, si porta dietro un leggero rumore, un rumore strano, diciamo, ma come radio non è perfetta nemmeno la sua, devo essere sincero, ma attenzione, io ci ho sono raffreddato, quindi ci ho raucedine, la voce cambia pure a momenti, sono sincero. Comunque, Robe, dimmi, adesso sono vicinissimo al microfono, dimmi come mi senti meglio, se quando sono vicino al microfono, oppure se l'allontano. In questo momento sono a circa 10 cm dal microfono. Dimmi come è meglio la radio, questa o quella di poco fa? Va bene, ero disattento un attimino, riprova. Ma tu stai utilizzando il microfono da palmo, naturalmente. Naturale, no? E vabbè, qua stiamo tutti utilizzando microfoni preamplificati per quello che ti arriva molto forte di radio, ma di Pierpaolo. Comunque non mi metto, quant'è? Per voglio confrontare l'antenna tua, la resa dell'antenna tua rispetto alla mia. Come ti arriva Pierpaolo a te a casa tua? Vieni avanti, Pierpa. 1-3-1-3-1-3, no, non è via, è normale il microfono, non è OCTE. Allora, arriva Santiago 3. Santiago 3, tu naturalmente lo prima arrivi 5-7, diciamo, ecco, 5-7. E naturalmente sarei entrando, uscendo nelle condizioni normali, 5 watt, ecco, così. Sì, un pochettino più di 5, ma ormai un rapporto di segnale così basso mi dai. Allora, Pierpaolo a me mi arriva quasi 9 più 20, radio 5, e tu mi stai arrivando quasi 9 più 50, radio perfetta, senza nessun disturbo. Come mai? Ma non è che c'è l'elettrica in chiuso tu? Lo so, mannaggia, attenzione, sto uscendo con un baracchino, Un baracchino, tu per dirti o roba del genere, c'è scritto qua, dunque... scritto Luisa Blanker, poi c'è ANL off, non so cosa sia, perché questo si è rotto l'interruttore, insomma cambio il servo, devo essere di chiaro. Comunque il segnale è quello, vabbè, non vuol dire nulla, però sì che lo orbita non funziona bene, che ne so, non è detto, lo diciamo che non sta uscendo benissimo. Solo che questo può darsi che questo orbiter non misuri molto bene, questo qua, riprova. Infatti Santiago 7, cacchio, mi ascoltano a poco torre, Alviero arrivo oltre 9, 9, 5, certi passaggi anche 9, 10, infatti veramente c'è lo smitter messo male, non è possibile, siamo così vicini che io ti do un rapporto di 9, 50, ma non è la Mantova tu? La Mantova, cioè, la Mantova naturalmente è la stessa antenna che poi usano nelle frequenze radioamatoriali, insieme ai diponi eccetera, noi adesso ho fatto la commutazione. Dalle antenne, diciamo, di polo, ma di polo eccetera, no, forse sai cos'è, diciamo, aspetta un attimo, sto guardando una cosa, forse perché c'ho troppe antenne collegate alla Mantova e quindi mi procurano molte stazionari, quindi forse dovuta a quello, perché c'è un... adesso sono entrato sulla 27, ma dovrei, diciamo, mettere a posto, accordare parecchie robe per ricevere e per trasmettere anche bene, questo giro. Sono entrato così a salutare l'amico poco fa, e mi ha fatto piacere, sei entrato anche tu. Poi magari, gli altri due apparecchi, tutti e due accesi, ci ho acceso anche l'apparecchio 144 e ci ho acceso anche l'apparecchio che è sui 40 metri, che questo ormai si sentono solo russi e basta. Ok, Robert, riprendi. tappa. Vabbè, no, la parte mia è tutto ok, sta andando perfettamente, siamo molto vicini, però mi meravigliava che se stai arrivando così basso dalle tue parti, considerando il rapporto di segnale che ti ho dato io, idem anche a Pierpaolo, ti sta arrivando così basso, ma probabilmente c'è lo smitter difettoso, perché non è possibile che Pierpaolo a 9.20 quasi a me arrivi Santiago 30, è impensabile, probabilmente c'è solo lo smitter fasullo, diciamo. Per adesso stai andando tutto bene, avanti Pierpaolo. Funzionano benissimo, niente da dire, magari nella zona tua ce n'è qualcuno più forte, ma utilizza qualcosa di diverso come antenna e come probabilmente come apparato, però il segnale considerando dove si va più che bene, radio 5 molto amplificata, il discorso dell'eco lasciamo perdere, l'ho ripetuto troppe volte e per questo sta andando tutto bene. E avanti di nuovo, come si chiama, Giovanni, o preferisci Bracco, scegli un po' tu. Pierpaolo, come ti arrivo a te a quelle parti? Dimmi che il segnale è più che la radio, no? Ma il Santiago è di 3 e mezzo, dai, una poco fa era un pochettino, c'avevo l'apparato, comunque la radio, cioè mi sembra che sia la tua voce così, perché qua non ha, a quanto sta uscendo? Ma per te sentirti, anzi tu che parli comunque penso, dal timbro di voce molto basso. Eh sì, non lo sto alzando la voce, e non posso alzarla tra l'altro. Ok, Robert, ti ringrazio di questo, ho evitato la carica batteria. Buon appetito anche a voi se non avete mangiato, ci risentiamo magari un altro momento e guardarsi anche stasera di 6. Ok, ti rilascio il micro, va bene. Ok, buona carica. Mi hai sentito come al solito, non ci sono problemi, poi quando fai quei lavori a Torraba magari facciamo delle prove qua da Sassari di sera, però naturalmente quando non è in orario di lavoro, così vediamo un pochettino come ti ascoltiamo. C'è qualche amico di Torraba, l'altra volta ce n'era uno, però era in condizioni un po' critiche, comunque lo tiravamo abbastanza bene, così vediamo anche a te cosa riesci a fare. E avanti per farlo, quei saluti per Giovanni. Ok, bravo, buona carica, buon tutto, risentirci alle prossime dai. Ok, attenzione, vabbè, ma Torralba cos'era? Un radioamatore oppure VCB? Non me lo ricordo, l'abbiamo sentito, ma forse c'era Pierpaolo pure. Pierpaolo, te lo ricordi? Sì, non me lo ricordo. E come si chiamava, te lo ricordi? Non me lo ricordo adesso. Vabbè, comunque, già era una voce che l'abbiamo sentita altre volte, adesso non mi viene in mente però come si chiama, comunque l'abbiamo sentito a Torralba anche se non era in condizioni buone, perché la Torralba doveva arrivare molto più forte, arrivava molto basso, almeno nelle mie coordinate. Sbagliare, mi sembra che sia IS0 America Yankee Zanzibar, credo che sia quello nominativo. Ok, no, è un mio amico questo, tra l'altro un professore di fama internazionale, ha scritto anche dei libri. Se quello l'animatore ce n'è uno solo a Torralba, l'altro sono io, ma ci vado un po' raramente, diciamo, ci vado una volta a settimana, quindi è probabile sia quello che ti sto dicendo. Ma l'hai ricevuto in quale frequenza a proposito? Se no, insomma, non ho idea manco chi sia. No, qua parliamo sempre frequenze normali, no? Frequenze amatoriali. In 27, non so il canale, probabilmente il 10 o il 21 dove siamo noi, l'abbiamo sentito qualche settimana fa. Allora non ero animatore, perché quello che sto dicendo io, quello non entra mai nelle frequenze, non entra addirittura anche 144, quello va solo diciamo in 80 metri, 40, 20 metri, 10 metri, eccetera, eccetera, non è quello, stai tranquillo, non è quello allora. Allora probabilmente mi voglio informare, prima c'erano due CB a Torralba, adesso non lo so, ma ho pensato a Giuseppe forse, un altro che conosco. È parecchio pure quello che non ho copiato più perché era il parcheggio anche per quanto riguarda la CB. Bene, rinnovo i saluti e ci sentiamo un'altra volta, ciao. Ciao di nuovo, avanti per favore. sì, ciao ciao, buona. Non proseguo il serale, sarà. Meglio che senti così. A me stai dicendo? Già. A me mi stai facendo la legge, cazzo. Più forte di così, cosa vuoi fare? No, vabbè, ho cambiato apparato. Aspetta, sei più forte di prima. Ma prima eri già abbastanza forte, diciamo già nel limite della saturazione. Ah, non credo, perché sono utilizzato gli stessi watt. No, non sto parlando di potenza, io non mi riferisco mai alla potenza, parlo di saturazione e di modulazione, molto, molto troppo amplificata. In questo caso sei già, la lucetta rossa è fissa, per cui sta già esagerando troppo. Questo è il W3 con il superstar. C'è questa specie di effetto eco sotto. Effetto eco? Con questo fatto non è eco, Sento una cosa sotto, un Ah, si è attivata la ventola del collo, ecco, adesso non c'è più. Ma è troppo alto però, prova a abbassarlo un pochettino, non lo so, prova a abbassarlo dall'apparato, puoi abbassare l'apparato? Ma adesso l'ho abbassato dal microfono, guarda è. Ma tu a che distanza stai parlando dal microfono, per curiosità? Quanto è lungo il mio braccio? Cazzo, figurati, io sono di, quanto sarò, diciamo, due palmi dal microfono io. Non so se sia così forte come stai uscendo tu, ma tu sei un bel forte di radio. Guarda, così adesso sono girato proprio, e mi sono messo a 50 centimetri e sono girato verso la parte del microfono, perché prima ero girato anche la parte del computer. Guarda, se vuoi io ti posso dire come va bene per l'orecchio mio, secondo me è troppo forte la radio, chiara però troppo forte. L'ho abbassata, guarda, l'ho messa a 2. Ma dimmi, l'apparato che cos'è invece? È il Superstar, il 3600 FM. Boh, è un bel spinta, sembra di chi ha 48 modificati. No, e cazzo che non hanno, ecco, ma non mi dici, ti vede con i roghi, no? Dice normalissimo, intatto, nuovo, cromato. Prova per curiosità a abbassare, però abbassa un bel, e poi ti dico alzare, prova a abbassare, adesso come c'era la metà il microfono, che altro è? Ma cosa, il Mickey Game? Il Mickey Game mi sto riferendo, mio, che è troppo alta la radio. Allora, metti io, posso andare qua, così va bene. No, scendi un bel, proprio fa la bassa la radio, e poi voglio vedere le variazioni di tonalità, se ti cambiano anche le tonalità. Perché, per dire, con l'MV più 5, tu come abbassi o come alti ti cambia anche le tonalità, per dire, ti toglie degli acuti o ti esalta più bassi, eccetera. Voglio capire se il canale più 3 ha lo stesso difetto. Troppo bassa, prova a salire un po'. Così, guarda com'è. Adesso sei cupo, prova a sollevare un po'. Guarda così, come così. Ah, dimmi una cosa però, voglio capire, tu ti stai regolando il Mickey Game dell'apparato o il Mickey Game del microfono? No, ti ho detto il Mickey Game dell'apparato. Allora, fai una cosa, mettilo a metà con l'apparato per curiosità, e poi sollevi il timer. Allora, a metà, ecco qua, stai uscendo a pennacchie. Non si comprende nulla. Anche adesso? No, adesso no, prova a parlare adesso. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Prova, ma hai cambiato anche la distanza, più lontano dal microfono sei adesso. No, sono sempre a distanza di 30 centimetri come tanto fa. Prova a stare appena più lucido il microfono adesso. Di mezza tacca. No, c'è qualche problema su quel potenziometro, non so se dipende dal potenziometro, qual è quello dell'apparato o quello del coso, come lo tocchi ti mangiano le parole, deve essere c'è polvere. Sicuramente, anche adesso. No, adesso va bene, prova a parlare adesso. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dire il livello giusto, secondo me, la pandemia, livello di emissione perfetta, non ha distorsione né niente. Questo microfono mi dicevano tutti che mi porto tutti i rumori appresso della stanza, però boh, e come fai? Però poi il microfono è molto arzillo, come ti intendo il rumore lì, tu dici? Adesso non parlare, manda solo portante, voglio sentire cosa si sente adesso. La televisione. No, la televisione non la sento, sento tipo un motorino. Quello non si può eliminare, quello è il switching, la frontiera di switching, quello la senti sempre. Se c'è un bel di QRM alto sotto, capito? Ce l'ho, oggi ce l'ho a 7 QRM, sento un bel di, comunque va bene, di super di brutto QRM, no, la radio da parte mia così va benissimo. Adesso tu hai fatto le regolazioni, fammi capire una cosa, dall'apparato o dal microfono, dimmi che proviamo a fare il contrario adesso. No, tu mi hai detto di mettere a metà il making dell'apparato e poi sollevare dal microfono, così mi hai detto tu e io così ho fatto. Va bene, adesso facciamo il contrario, metti al massimo l'apparato e diminuisci quello del timer e vediamo se ti cambia, cioè se i problemi te li dà l'apparato o il microfono, nel senso ti cambia la radio, perché ho notato qualche differenza, nel senso che come facevi sollevarvi e abbassarvi ti si incupiva un po' la radio. Adesso con questa regolazione va bene, prova a fare il contrario, vorrei se ti guadagni un po' di acuti. Allora, qua ho messo tutto l'apparato a manetta e a uno un'attacca il microfono. Prova adesso a sollevarlo un po' il microfono. Allora, così mezza attacca. Attacca appena appena. Così siamo tornati a due. Guarda adesso. Adesso praticamente a manetta il superstar, metti che la paretta. Già in due. Così sto parlando 30 cm uguale. Allora, questa è la regolazione migliore. Se vuoi dire una cosa, ti voglio dire delle cose. Allora, il tunnel c'ha anche lo stesso difetto di quell'altro. Allora, quell'apparato, se tu lo metti a manetta, come si chiama? Vabbè, l'apparato, diciamo, il problema sarà dall'apparato, non sarà dal microfono, perché il circuito microfonico del tunnel è sicuramente superiore. Quando metti l'apparato al massimo, come adesso, e diminuisci il tunnel, migliori la qualità di emissione, perché adesso hai migliorato gli acuti, è più lineare come modulazione rispetto a prima. Prima eri un po' cupo come radio, hai messo l'apparato a metà e hai sollevato il tunnel, invece adesso hai fatto viceversa, hai sollevato, così conferma se stai dicendo, se sto dicendo giusto, hai sollevato l'apparato al massimo e il tunnel l'hai diminuito, così è? Sì, così è. Allora, se vuoi un consiglio, per qua poi chiedi consigli anche ad altri, questa è la migliore che c'hai di modulazione, come regolazione è tutto, non devi toccare niente perché non sta distorcendo, pulita e forte. Se c'è qualcuno in frequenza, avanti, chi gli vuole dare una conferma, gliela dia per qua. Non vedi nessuno. Comunque riprova, ti voglio se fa un passaggio un po' più lungo. Ma non lo sto usando perché mi dicono sempre che mi porto dietro la televisione, che mi porto dietro il rumore della stanza, fate comprendere, bravo, ditemi tu se mi sta fresco, e cosa posso fare, non è che posso girare, ma quando trovava la televisione, la stanza era vuota, non c'era nessuno, mi dicevo che sentiva il rumore della vento, ma aspetta, ho delle switch che mica la posso spegnere, no? Allora Peppa, io adesso non sento niente, è tutto pulito come coso, sta andando alla grande, televisione non so se non è acceso, io non essendo televisione, quando è andata la portante muta si sentiva la venta, adesso come stai parlando non sento niente, non sento né difetti di alternata né niente, la pandemia è tutto ok, 100% di qualità, non posso dirti niente. Questo è il superstar, è nuovo mio, è quello con la mascherina cromata, no, lui c'è la cromatura, la cornicetta, questi sono i tasti cromati, non so se lo conosci. No, non di persona, nel senso non l'ho mai visto, l'ho visto solo in fotografia, no, ma funziona bene, la radio è bella potente, guarda, chiedi consiglio agli altri se non ti fidi di quello che ti dico io, a parte mia è la migliore che c'hai in assoluto, questa, cioè, con questo tipo di regolatore, rispetto a prima invece eri un po' più metallico, più barattolosa diciamo, cioè avevi meno acuti e un po' più predominanza di medio e di tonalità bassa, adesso invece è proprio pulita, lineare, non ti posso dire niente, radio perfetta a parte mia. Aspetta, facciamo una prova, comunque in dipolo a vedere come mi ascolti, vedere se cambia, se è la stessa cosa, io parlo sempre da questa distanza, comunque in coso, in dipolo e vediamo come arriva, guarda un po', aspetta, lo faccio direttamente, ecco qua, adesso ho contato direttamente sul coso di dipolo, guarda a vedere. Lo sai adesso cosa è successo? Vabbè, forse si è abbassato il segnale. Adesso sì che ti porti appresso un po' di rumore. Il rumore del fondo lo sento di più. Questo è il dipolo. Quindi adesso si sente il rumore del fondo. Adesso la vento la sento molto presente. Invece quando diciamo, commuti l'antenna, non so per quale motivo, allora hai problemi di cavo, non so, qualche cosa che ti fa entrare qualche rientro di qualche rumore. Stavo abbassando giù il segnale, si abbassa, di quanto si abbassa? Di 15 punti, di 10 punti, dai. Come mai, cazzo? Con la chiana, qua è verticale, bro, ci portavi. Oh, va bene, che forse questo che sento non è la ventola, forse è qualche battimento, qualcosa che ti sta tirando fuori. Io dicevo, ci occorrerebbe altissimo, può essere anche propagazione, ti stai portando appresso, siccome si è abbassato il segnale, si sente forse qualcosa, forse non è la ventola. Comunque hai perso un po' di radio, per appena poco fa il rosso era quasi fisso, adesso stava pregiando, per cui come ti sei abbassato un peluzzino di intensità di potenza di microfono l'hai diminuita, però va sempre bene. Quindi c'hai ragione, adesso ricollocata l'antenna, perché in di poi riceve tutto quanto vero, proprio con questa c'ho appena uno di cosa, ma a casa dell'altro ci avevo messo lì a 7. Capa, dimmi una cosa, io come ti arrivo di segnale? Tu sei 9.30, sì, sul 30 proprio, proprio lì, sul 30, sì, non so se con il trasmetter, sì, sul 3 del 30. La radio è 5, bella. E cosa? Dimmi una cosa, Falchetto, per dire che lui c'ha l'antenna nuova, quando ti arriva lui dalla direzione tua? Lui mi arriva a Santiago a 4, però la radio adesso ce le può dare un 5, prima radio, mi aveva chiesto che con l'antenna radio era 3, quindi adesso ti dai 5 del radio, il segnale è un po' scarso, ma già va bene. Ma io non riesco a capire, vista l'antenna di cosa, qualche te un ripo, cioè allucina, cioè c'è una ricezione in una direzione da paura, cioè supera anche a me, per dire, quando accompagna Domenico, arriva meglio di me, poi ti sposti appena appena di 20 gradi in un'altra direzione, vero, lui, per dire, come si chiama, segnali che a me arrivano 9.10, 9.15, quello Capri 2, 3, Santiago 3, adesso mi sta dicendo che anche in trasmissione da te arriva a basso, e prima tanto tu arrivi a quella antenna. No, arrivavano a mezzo 3, il radio molto scarso, 2-3. Secondo le volte il PRM anche non riusciva a scavalcarlo. Adesso il radio riesce a scavalcarlo, ma vuoi mettere la sua posizione, ad arrivare da me. Io l'ho guardata, lui c'ha parecchi passi a scavalcare e parecchie, poi tra me e lui risultiamo infossati, invece tra fra me e te, io c'ho di fronte a te. Ma così io avevo lo stesso problema con Luca Flipper, era l'unico che io non riuscivo a sentire, cioè lo sentivo sì, però a segnali di 9 non gli avevo mai dato, arrivava a 7-8 il massimo di rapporto di segnali che ho dato a Luca Flipper, come non è, ma non sono mai riuscito io a prenderlo bene con la persona lì. Stranamente forse era completamente fuori dalla mia portata, perché la veloce li ascolto tutti, ma io, ma se mi arriva che è una bomba, forse uno, forse, è il più forte segnale di Sassari, considerando tutta la zona del monte, quella roba lì, è quello che mi arriva più forte di tutti i mari. Poi vabbè, c'è qualcuno più vicino, magari più in alto, però considerando tutta quella zona lì, non ha Gianni, chi c'è poi Natalino, tu, vabbè, tu sei con un'antenna diversa, è quello che mi arriva più forte di tutti. Ma ormai tu devi fare un calcolo, che io l'antenna non ce l'ho sul tetto, io ce l'ho nel cuore, attaccata all'antenna, ma attaccata alla ringhiera. Ho un'antenna a un quarto d'onda e io il mio palazzo è libero sul tetto, non c'ho nessun altro palazzo attorno. È abbastanza alto, se sali sul tetto vedi tutto Sassari. Se io dovessi mettere l'antenna sul tetto le cose cambiano. Comunque non so se me ne hai ragione per l'antenna che sto usando e per l'altezza che ha, perché io la terra alla ringhiera, io abito al primo piano, sono 11 metri esatti, poi c'è un paletto di un metro e mezzo e c'è l'antenna sopra, quindi vedi un po' tu, per come sto uscendo, cioè arrivo abbastanza bene, arrivo anche dappertutto. No, no, per essere in quelle condizioni sta andando alla grande. Sicuramente, cioè, rispetto ad Antonio, io Antonio non so che antenna sia per attendi, se è diversa dalla tua, Antonio arriva molto più basso di te. È diversa dalla mia, molto diversa. Lui è entrato adesso, lui ci usa, vedete, da 9.20 lui arriva a 9. Ma che non si basta? Già va bene, perché io sono la parte opposta. Guarda, c'hai il segnale, è un più basso di Pierpaolo con Di Polo, perché Pierpaolo con Di Polo arriva un po' di più di te. No, perché sono dalla parte opposta, Roberto. Mentre giù a quarta volante io ti sentivo, a mia parola non riuscivo a sentirlo invece, in mezzo al correme con l'antennina che avevo giù io. Vabbè, ma così anche lui sta utilizzando 4 watt e c'ha un'antenna di macchina in pratica, e non sta utilizzando 4 watt e se sta arrivando nuovo sta arrivando bene. Sì, no, ci mancherebbe. E dimmi una cosa, Pompugno adesso, che a me ha moltiplicato la potenza, arriva anche una bomba, da te come ti arriva adesso con questa antenna nuova? Adesso mi arriva come pare, non me lo ricordo adesso, mi pare qualcosa era Santa Lucia, ma la radio era perfetta. Infatti è quello lì che sa fare le cose, lui che c'ha questa turbo 2001 in ringhiera ha moltiplicato sia la potenza che la ricezione. Lui l'altro giorno ha ascoltato a Coso, a Domenico, se l'ha portato appresso per un bel pezzo, una bellissima resa rispetto, per dire, a Falchetto ti arriva più forte lui con la turbo 2001 che Falchetto con l'antenna 5. E poi ci sono dei fattori un po' strani, vabbè, perché immaginati tutti, ieri sera per esempio stavo arrivando a Muros 9.40. Da chi? Da Gianni Capriue, 9.40, mi stavo arrivando, Allora vabbè, i controlli di Gianni Capriue sono un po' sballati, a chi un bel volto mi dice arrivo a fondo scala, uscendo con mezzo vatto, un vatto gli arrivava a fondo scala, ma cacchio faccio arrivare a fondo scala, e Falchetto gli arrivava a 3, ho detto buh, è assurdo, per me che su Smith era ubriaco. No vabbè, ma a parte lui comunque è impossibile, perché io quella zona lì la prendo in pieno, infatti c'era anche un camionista, mi ha dato più di 9.20, la radio dice era 5 e tra l'altro non ci ha creduto neanche che non ha questa parte, figurati un po', non mi ha creduto e secondo lui ero vicino anche. Infatti male trovo il canale giusto, a me mi è capitato con Luca un giorno, questo tipo la Senori, e Senori c'era di fronte Luca rispetto a me, cioè non ne ha ostacoli. Luca non lo sentivo assolutamente, io non ci credevo, infatti ho trovato un video di così a Senori, mi arrivava alla 9.10, 9.15, e Luca è vero, non riusciva a sentirlo. Infatti sono rimasto a bocca aperta, ma gli ho trovato il varco, si spostava male di 20 centimetri e non lo intendevo più. Capita molte volte, è strana la propagazione, dalla onda. Guarda, infatti non so, tu che c'era quello che diceva di essere a Signori, io Signori io qua lo prendo in pieno, perché Signori dalla parte mia è più che l'avanti. Sorso e Signori, guarda, per me i segnali, anche se è basso il segnale, qua mi arriva. E invece chi credo di essere a Signori, un capo della Signori è tutta un'altra parte. Però ci provano ogni tanto, ma io, siccome io lo so com'è, perché ho fatto le prove e non mi filmassero a me, infatti a voi si è cagliato pure la muta e non ha detto più niente, ma credo di prendere la gente, cazzo, quando lo sanno, ad esempio che per me sorso il segno, io ce l'ho qua di lato, cioè di lato proprio libero, libero, libero, non c'ho niente davanti, nulla, manco un palazzo va, c'ho la barca di segno del sorso, e si vuole imbarcare a me, tu. Lo so, ma anche l'altro giorno quel tipo che diceva che era la Itili, a Luca gli arrivi a 9.20, 9.15, e a me mi arrivi a 9, ho detto, mi sbagli troppo il strano, che lui arrivasse, cioè Itili ce l'ho di fronte io, proprio non ho nessuno ottaio, era a bomba quando c'era quello, come si chiama, Gianni, così si chiamava, Gianni da Itili, Giovanni, quello mi arrivava a tavoletta, come arriva Tonino, Tonino addirittura vabbè lui ci va anche con qualcosina di più, gli schiacciava molti disastri, li schiacciava, li sovramodulava. Sì, lui però usa potenza, hai capito? Se usasse una potenza sua, allora buonanotte, se gli sono fatto. No, già ho sentito anche quel fatto che diceva, quanti oggi tagli Itili? Poi, da sapere che io Itili lo conosco bene, specialmente che si viene in camion e in tempo, dai no, che lo sono Itili. Sì, già lo so, a me mi arrivano fortissimi tutti i segnali dei Itili, quella zona lì faccio tutto bene, Itili, Usini, eccetera, eccetera, quei paesetti. Poi vabbè, c'è la zona della Ghera, però è un altro discorso. Però quelli ce li ho proprio di fronte qua, non ho nessuno stato, cioè non c'ho palazzi che mi intracciano, non c'è niente. Infatti al di tu, che arrivava, a Luca gli arrivava, io ho detto, ma neanche la strada di Itili, perché nella strada di Itili a me mi arrivano forti lo stesso, ce li ho di fronte. Io a Monteoro lo vedo, le antenne di Monteoro, la casa mia ce li ho di fronte. Quella strada lì, quando arrivano, dice, sta arrivando nella 4 corsi, arrivano i segnali, che neanche a Sassari molte volte è sì. Adesso non tracco la trama, io porto Torres, buio, buio, porto Torres, a ottava io inizio, da ottava inizio a sentire io, però porto dottore si stava a 131 al buio, cazzo, mentre invece a quarta ora arrivo forte, come ti dici che ti si cosa? Anch'io quel dottore non è che sia tanto favorevole, posso trovare scherzando. Ma la cosa più strana, io non so se lo sai dove sono state di lì vicino a quel villaggio della torretta. Luigi Vulcano, quanto è lontano da Anchimi, in linea d'aria? Insomma, già è abbastanza, eh. Allora io Luigi Vulcano lo sentivo basso, ma basso, cioè, la radio non gli davo 5, gli davo 4, il segnale male gli davo 6, 7. Quelli di Sassari, cacchio, mi arrivavano più forti di cosa, di Luigi. Ma molto più forti, Natalino, vabbè Gianni è molto aperto, tutta quella gente lì arrivava, il più forte di tutti in assoluto, che non aveva capito, era Tino. E Tino dice verso la Budibudi, non è così, arrivava più forte di tutti in assoluto. Capo, per esempio lunedì io ero a Valle Doria, non c'era per nessuno, che ci portavano la casa sua, non c'era per nessuno, cazzo mi è arrivato proprio con Santiago, adesso con Santiago di 9:10, una cosa impressionante. Quella zona lì lui la prende in pieno. Ma anche Budusome, lui, per dire, che è molto più lontano di noi, lui ha tutti i monti di Ruggio davanti, non so come cosa, lui, quando parlavamo con quello Gianni Piccirillo, così si chiama, lui lo sentiva più o meno come lo sentivo io, lui era molto lontano, e quelli di Sassari a un certo punto non lo sentivano più, quando c'era un po' di giornate strane, eccetera, eccetera, che c'è un po' di ORM, nessuno lo sentiva, parlavamo solo io e Luigi con quello di Budusome. Già lo so, già, cazzo, ma lui c'ha un'apertura verso quella zona che è micidiale, cazzo, erano lo più forte dello segnale da Civito con Trevento là, siccome non era mai capitato, ci sono andato tre volte, altri sì mi arrivavano, anche Natalino mi è arrivato, però sempre quel segnale 3, 4, così, 2, a smalto, no, camminando naturalmente. Ma lui invece era fortissimo lì, caspita, c'ha una buona posizione, infatti lui, non lo so io, lui mi ha detto che arrivava anche se una cosa a paradiso, ma ci credo, perché c'aveva un buon segnale, figurati, guarda che Valle Doria, ci sono le montagne di vento, Sì, lo so benissimo come la Lugreda, però lui lo sai cos'è che il discorso della Turbo 2001, io lo stavo studiando la situazione, perché se tu ragioni che cacchio, Battamona, la Rotonda, che tu è linea d'aria a casa sua, sarà 2 km e mezzo, esagerandomi, forse neanche, e quanto lontano Valle Doria, l'onda elettromagnetica, probabilmente lui c'ha un angolo molto, molto alto di radiazione, per cui riesce a scavalcarti la montagna, nei pezzi brevi, è tipo le radio a onde medie, che magari se ti metti sotto trasmettitore non intendi, ti sposti a 500 km lo senti, perché l'onda scavalca il coso. E a me mi è capitato, ascoltando i radioamatori, c'era una persona che non facciamo nomi, che stava parlando, uno che conosciamo molto bene, parlando nelle V. E questo stava utilizzando il ponte e io lo stavo ascoltando col ricevitore mio e l'antenna multibanda, non antenne particolari su frequenze, cioè antenne più specifiche, un'antenna larga banda. Questo qua è arrivato a un certo punto, questo continuava a parlare e lui diceva no, non ti sento più perché ha perso il ponte, non agganciava qua. Dice, io lo sentivo, dice, sono entrando nelle gallerie di Cozzo, sono dentro la galleria parlando questo qui, sono uscendo, io lo sentivo anche dentro la galleria, con l'antenna, con il ricevitore della R3000, l'antenna multibanda, l'ho sentito sino a Trinità da questa è di Trinità, non mi ricordo il nome attivo di questo radioamatore, e questa persona che c'è una stazione che non finisce più, antenne non finiscono più, purtroppo non riusciva a sentirlo, dice non ti sento più. No, vabbè, ma lui non era, Gigi Vulcano era a casa sua, nella sua stazione con la moto qua, io ero a Valle Doria con la mia macchina, e lui dice, mi sentiva, dice ok, stai arrivando 8, 9, qua si vede che sei in movimento. Anzi, c'è un'ottima posizione quella, non c'è niente da dire proprio, almeno per quella zona. Comunque lui arriva anche, infatti, dal cambio da lì, perché molte volte l'ho sentito anch'io, quando era Sassari era carbonato, l'ho ricevuto, che addirittura era pulito dalle gallerie di Valle Doria. Anzi, però da casa è una bomba, è proprio veramente, arriva benissimo. Noi le abbiamo fatte le prove quando andava a lavorare Claudio in quelle zone, adesso mi ricordo dove andava, che c'è un depuratore proprio mi sembra quella delle Valedoria. Allora noi lo sentivamo sino a un pezzettino, io almeno io, sino a prima di Castelsardo, a Lubagno, arrivava di lì, lo sentivamo prima e lui mi sentiva a me. Poi c'era un buco che non lo sentivo più e poi lo riprendevo dopo Castelsardo a Valedoria, quel pezzettino lì lo ascoltavo piccolino, però lo sentivo. Gli altri invece, Gianni e quelli lì lo sentivano più forte di me, tra i giti probabilmente erano più aperti. Perché io quelle zone lì sono un po' negativo, come sono negativo per Platamone e tutte quelle zone lì. Non, cioè quelli del monte mi schiacciano di brutto. Io sono molto positivo per la zona di Alghero, che non ho nessun ostacolo. Alghero, Olmedo, tutti i paesi vicini arrivo che è una schioppettata. Però sono negativo, l'antenna mia, non so per quale motivo, rispetto al mare non va. Chiedo se qualche cosa, c'era, l'ho sentito in parte perché c'era il disturbatore qua, che ti metteva la portante. Non ha come insegna. Comunque c'è anche nel parcheggio, facciamo un'entrata un attimino e poi facciamo una chiamata generale se c'è qualcuno. 41, dammi l'occhio. Dimmi. Fa una cosa, c'è il disturbatore, canale 41. Tappa.